Il 13 dicembre del 2018 il quartiere Giambellino e Milano tutta sono scossi dagli arresti nei confronti di nuovi appartenenti al comitato abitanti Giambellino Lorenteggio. Le accuse nei loro confronti sono di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione e alla resistenza, oltre a svariati episodi singoli di resistenza e occupazione. Oggi, a 3 anni di distanza da quegli arresti, il primo grado del processo nei confronti di quei 9 volge al termine. In vista di questo epilogo, sempre più prossimo sulla vicenda giudiziaria del Comitato, alcuni di noi hanno pensato che sarebbe opportuno riparlarne collettivamente a livello cittadino. Riteniamo infatti che le accuse contestate ai 9 siano accuse gravi e che le probabili condanne debbano farci riflettere su varie questioni non più rinviabili. Per ricentrare la questione occorre innanzitutto ricordare che, prima degli arresti nei confronti del Comitato, erano stati stanziati circa 80 milioni di euro, ora aumentati, per la riqualificazione della zona. Più volte il Comitato aveva pubblicamente indicato questi investimenti e la costruzione della metropolitana, che solo nel quadrilatero compreso tra via Gelsomini e piazza Tirana conta ben 3 fermate, come l'inizio della gentrificazione del quartiere. Appena effettuati gli arresti, avendo di fatto smantellato il comitato con l'operazione poliziesca e militare, assieme agli arresti è stata infatti sgomberata la base di solidarietà popolare, sede del comitato e luogo in cui erano ospitate numerose attività territoriali, unitamente alle minacce porta a porta, ti togliamo la casa, ti togliamo i figli, ti togliamo i documenti, effettuate da carabinieri e ALER, ecco che sono infatti iniziati gli abbattimenti dei palazzi. I lavori sono andati avanti e altri civici, tra cui quello che ospitava la base, sono poi stati abbattuti. Inutile nasconderlo, gli arresti sono molto legati alla gentrificazione della zona. Non ci si può permettere che qualcuno si metta di traverso al profitto, specialmente per preservare qualcosa come l'edilizia residenziale pubblica, che di profitto ne genera molto poco e per questo da decenni è oggetto di smantellamento. Non per niente, se una volta la gestione delle case popolari era considerata una problematica di welfare, adesso viene invece trattata come una questione di ordine pubblico. Osservando le trasformazioni urbane che hanno coinvolto la nostra città negli ultimi anni, ormai sono molti quartieri spariti, riconvertiti in zona alla moda che generano profitti incalcolabili. Basti pensare a Isola, ex quartiere popolare e ora costosa zona di movida, in cui localini e teatri per giovani hipster si alternano a loft e grattacieli. Il prospetto per il futuro non sembra essere migliore. Mentre sullo sfondo si staglia il mega evento delle Olimpiadi invernali del 2026, ogni settimana un nuovo evento si prende con arroganza il centro e i quartieri in cui abitiamo e i progetti di riqualificazione, ormai sono così tanti che è difficile starci dietro. San Siro, Baggio, Padova, Corvetto, Via Gola, solo per fare degli esempi. Come ha recentemente dichiarato il sindaco, ogni zona può essere messa a valore. Quasi un monito a noi che abitiamo quelle zone su cui vorrebbero mettere le mani. Non può non farci riflettere anche l'inasprimento repressivo degli ultimi tempi. Dai decreti Salvini che intensificano le pene per tutta una serie di pratiche comuni a chi lotta e criminalizzano l'immigrazione, passando per i Daspo Willy che a Milano sono stati comminati nei confronti di tanti ragazzi di periferia, le possibilità repressive sono aumentate a dismisura. Anche nel nostro ambiente abbiamo assistito a un moltiplicarsi di fogli di via, avvisi orali, richieste di sorveglianza speciale e multe Covid, tutte elargite arbitrariamente dalla polizia. Sono poi ormai innumerevoli i processi penali che riguardano situazioni di lotta e la scure della repressione si abbatte con sempre più forza contro chi, all'interno della metropoli, prova a sfuggire alla logica del profitto. Dagli operai caricati e processati, ai cortei circondati da centinaia di poliziotti, ai processi vendetta, a distanza di 10 anni, abbiamo evidentemente un problema. Ascoltiamo ora, sempre nell'ambito dell'incontro Occhi sulla città, un compagno che ha fatto parte del comitato abitanti Giambellino Lorenteggio e dà qualche aggiornamento sul processo per associazione a delinquere che stanno subendo e su alcune valutazioni sui cambiamenti del territorio che abitavano e in cui lottavano.